Siediti adesso in un luogo che ti si addice, particolarmente adatto allo stato in cui entrerai, uno stato di pace, quiete, distensione, estrema comodità. Siediti comodamente, lascia andare le tue spalle, accorgiti delle tue mani appoggiate sulle cosce. E possibilmente fai in modo che la tua testa abbia qualcosa che la sostiene. Se ti appoggi al muro dietro di te, fai in modo che il mento non sia rivolto verso l'alto, ma la nuca sia ben distesa e non cada di lato oppure in avanti. Mentre percepisci i glutei appoggiati comodamente alla seduta, puoi tenere anche gli occhi come preferisci. Fai semplicemente in modo che le palpebre siano più distese possibili. Accorgiti dei tuoi piedi appoggiati a terra, perché non sai che cosa sto per dire adesso. Avverti il punto in cui la tua schiena appoggia e fai che sia la posizione più comoda per te. Scuoti dolcissimamente le anche, ruota lentamente le spalle e mantieni la posizione ideale. Abbandonati. Senti i suoni provenienti dall'esterno e ascolta quelli provenienti dall'interno. E senti che stai diventando progressivamente più rilassato. E non sai che cosa sto per dire adesso. E stai respirando. E stai respirando circolarmente, pur senza accorgertene. E avverti il calore nel punto in cui le tue mani stanno appoggiate. Via via che continui a stare sempre più a tuo agio e provando diverse sensazioni di piacere, via via che puoi accorgerti che alcune cose sono già diverse, mentre continui ad ascoltare la mia voce. Non so se puoi accorgerti di quanto inizi ad essere piacevole questo esercizio. Permetti che sia io a guidarti e mentre accedi a nuovi stadi di coscienza e puoi permetterti di provare meraviglia adesso, tanto che proverai una sensazione di piacere al termine. Lasciati andare. Segui l'aria che attraversa le tue narici in modo automatico, lento e profondo. Ti trovi in un istante all'interno di uno splendido parco, molto grande, con viali e grandi spazi aperti. È una splendida giornata di primavera, con sole caldo. La temperatura è piacevole e soffia una leggera brezza. Il posto è davvero bello, anzi incantevole, e tu immagini di stare camminando in un piccolo sentiero, ai cui lati ci sono molti alberi, alcuni tropicali, altri comuni, ma meravigliosi. L'aria è fresca e profumata ed entra delicatamente nei tuoi polmoni, mentre puoi ascoltare il suono che i tuoi passi fanno ad ogni appoggio. Provi un senso piacevole di benessere e vitalità che dai piedi sale su fino alla nuca. Mentre passeggi hai l'opportunità di vedere che dagli alberi tropicali pendono qua e là liane che toccano terra. Queste danno una sensazione di calma e pace, di abbandono, di distensione, di libertà. Immagina di camminare con calma, guardandoti attorno. Ci sono prati verdi che si stendono a vista d'occhio, morbidi e ondulati, con un'erba delicata e fresca e tanti fiori variopinti, mossi gentilmente dalla brezza. Questa vista è davvero piacevole e ti dà forza, ti fornisce slancio vitale. Ad un tratto, mentre cammini, vedi davanti a te un albero il più enorme di tutti, gigantesco, tanto grande da non averne mai visto uno simile. Questo albero domina con le sue chiome ricchissime un ampio prato e affonda le sue radici nel terreno circostante. Queste radici si propagano per un lungo tratto attorno al tronco e lo tengono saldo al terreno, dando grande sensazione di forza, ma soprattutto sicurezza. Il tronco è enorme e si slancia maestoso verso l'alto, verso l'azzurro del cielo. È un tronco robusto, capace di affrontare qualsiasi avversità, qualsiasi temporale. In alto i rami si intrecciano gli uni con gli altri e puoi sentire il fruscio del vento e vedere gli uccelli che su di esso si posano e creano nidi e famiglie. Immagina di sederti adesso alla base di quest'albero e di appoggiare la tua schiena contro il tronco robusto. Ora sì, puoi sentire il contatto, e questo contatto genera un forte sentimento di solidità e di sicurezza. Allora ti lasci portare da questa sensazione piacevole che arriva dall'albero e che si trasferisce a te, come in una clessidra. Il contenuto passa da un livello all'altro, lentamente, ma totalmente. Lascia che tutte queste sensazioni si stabiliscano dentro di te e permettano di trovare nuove energie, e con queste si fondano a creare, a risvegliare nuove risorse. Abbandonati pure al flusso di questa energia e lasciati portare in una sensazione piacevole di ottimismo che circola già al tuo interno, come una nuvola che scorre nel cielo. Prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno e al termine, quando senti che sarà giunto il momento opportuno, inizi semplicemente, mantenendo i tuoi occhi socchiusi, a muovere le dita delle mani e le dita dei piedi, ruotare le spalle, aumentare il respiro, stiracchiandoti, stropicciandoti, allungandoti, stiracchiandoti piacevolissimamente. E poi, appena aprirai i tuoi occhi, un grande sorriso sul tuo volto e potrai gustare tutte le stupende e piacevoli sensazioni di questo momento unico che hai deciso di regalarti ogni giorno. Ti auguro una luminosa giornata.